Perfetto, quando? Allora, noi arriva che stiamo andando. A Paroci. Ecco, sentito. Ho detto stamattina, sì. Sì, stamattina, oggi mi ha chiamato. E io? Sì, sta anche lui così finito, K. Non posso fare la sua, non ci vediamo per niente, Gesù. Faccio un basso intendere. su un vestito che vedeva con reale. E ai, e ho un caruppio. Nicole, sono sempre in agguato, so. Oh! Cazzo, bella... Sentiamo che ho fatto, eh. KK, d'altronde ci chiama quando hanno sì. Alla noce. Sassari. Cagliere, non ce l'ho fatta, l'ha preso. Boh! amici? No, quello che ho fuso è Fusano, non è Fusano. Abbiamo parlato nome per Fusano, sì. Gli amici non li aveva, forse c'era Fusano, forse. E dove si chiede? Ebbene, non ce l'abbiamo qua, uno è costretto a andare fuori. Ma bisogna essere anche il pollice nella bocca. Ci hanno veramente ragione di ammazzarne qualcuno, cazzo. Ok, ok, bravo. Cosa giusto, chiudo tanto. Per prendere il sole sul treco. Ci sentiamo le prossimine, Giuseppe, dai. Ciao, passate la buona. Ciao, Bruce. Tanto, buon riposo, buon tutto, e un buon trabacco per lunedì, dai, ciao, ciao. Ciao, Giuseppe, ciao.